Kellogg. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Che succede qui? Buon pomeriggio, è lei Lancaster Dodd? Sì, sono io, buon pomeriggio. Ho un mandato per il suo arresto, signore. Bene, e di cosa mi si accusa? Secondo il Tribunale della Pennsylvania e la Fondazione Mildred Drummond, di appropriazione indebita di fondi. È solo uno stupido scherzo, no? No, non lo è, signore. No, questa è... questa... Dobbiamo schedarla e prenderle le impronte. È un'opera buffa. È illegale in questa città sentirsi meglio? No, ma è illegale gestire una scuola di medicina senza una licenza. Non è una scuola di medicina, signore, è una casa. Signore, questa è casa mia e loro sono miei ospiti. Mi scusi, ma no, questo momento. È il dipartimento di polizia. Non siamo in disaccordo questa con questi uomini. Questa è la mia proprietà, lo vedremo. Che perpetrano queste sciocchezze per difendere quale codice? Quello del dipartimento di polizia di Filadelfia e dello onore? Stato della Pennsylvania. Quale onore avete? Deve venire con noi. Fare fare parte della galassia. Mani dietro la schiena. Calma, non facciamo niente. Calma. Questa è una riunione scientifica. Freddy. Fermo. Freddy. Lasciatelo stare. No. Beppe Sanzon. Sveglia. Buongiorno, buongiorno. Sei stato a vedere il film? Sì, l'ho anche molto amato questo film di Paul Thomas Anderson, The Master. Secondo me è un capolavoro retto fra il gioco padre-figlio cannibalico di Philip Seymour Hoffman e Joaquin Phoenix. L'uno è il quest'ultimo è il figlio che torna dalla guerra sinistrato, col ghigno storto, con la gobba, e si consegna in questo stato un po' depressivo nelle mani di questa sorta di felino mellifluo che è Philip Seymour Hoffman, che sembrerebbe vagamente ispirato a Ron Hubbard, fondatore di Scientology, anche se il regista l'ha sempre negato. Però non è questo il punto, il rapporto è quello di reciproco rispecchiarsi e, come nei periodi di crisi, incapacità di parlarsi fra padre e figlio se non in un rapporto morboso e insomma di plagio mentale che si crea fra i due. Questo è il film. Questa è la rappresentazione, una delle tante, di un rapporto vessatorio che è molto facile trovare. A tutti può capitare un momento particolare della vita, nel caso del protagonista The Master è il ritorno da una guerra, il reduce dalla guerra comunque ha sempre un momento di straniamento rispetto alla realtà che ha vissuto e la realtà di quelli che non hanno fatto la guerra come lui, per cui è più facile ricominciare. La grande crisi che ci fu negli Stati Uniti con i reduci del Vietnam è storia recente, qua si parla della Seconda Guerra Mondiale. In particolare viviamo anche adesso un momento in cui molti di noi si sentono reduci da una guerra che non da tutti sembra essere stata combattuta nella stessa maniera. Non tutti sono stati al fronte, non tutti la vivono in prima linea, c'è chi la vive nelle retrovie, c'è chi sembra che non la viva affatto, sembra che non sia nemmeno sfiorato da questa guerra. Beh, questo è un momento molto particolare, è un momento in cui è molto facile che, sentendosi soli, sentendosi non capiti, sentendosi tagliati fuori dalla vita, dalla società, dalla dignità di un lavoro, dai propri affetti, anche perché la crisi, la miseria, la migragna non richiede amore, non richiede affetto, non richiede ammirazione, ci sente sempre più soli. E improvvisamente si trova qualcuno che si può occupare di noi. Come nessuno si occupa di noi, troviamo persone così generose che si occupano di noi, che sembrano parlare la nostra lingua, sembrano avere a cuore il nostro problema. Non sempre accade che questo sia un miracolo. Molte volte sono persone che per professione cercano gente disperata per farne un uso che non è propriamente quello di buoni samaritani o di occuparsi del prossimo. 800 24 0024. Avete incontrato un maestro di vita? Avete incontrato le persone che vi dicono vieni con noi, ti troviamo delle soluzioni per vivere meglio? Avete incontrato le persone che vi dicono mangia queste barrette energetiche, ti faranno bene all'anima? Se l'avete fatto, chiamate 800 24 0024. La tua paura dell'arresto e dell'imprigionamento è un impianto di milioni di anni fa. Questa battaglia è con te da prima che tu ne abbia cognizione. Questo non sei tu. Chiudi quella cazzo di bocca! Non sei tu. Chiudi quella cazzo di bocca! Non sei tu. Tu stai dormendo. Il tuo spirito era libero. Si spostava da un corpo a quello successivo. Libero, libero per un momento. Poi è stato catturato da una forza invasiva che vuole portarti sulla strada oscura. Ti hanno impiantato un meccanismo reversibile che ti rende timoroso dell'autorità e distruttivo. Siamo nel pieno di una battaglia che dura da un trilione di anni ed è più grande di entrambi. Questa merda te la stai solo inventando. Te la inventi questa merda. Non sai neanche di che parli. Velocemente, Sanzonna, questo è il momento del, del setting in cui il maestro, il guru, spiega qual è la sapienza millenaria a cui lui attinge, origine e scaturigine di ogni male della sua vittima. Però il setting è particolare perché sono tutti e due finiti in galera, proprio perché uno per appunto le sue... ogni tanto c'è Dio da qualche parte. Le sue predicazioni, e l'altro appunto perché lo difende con violenza, anche se poi adesso in questa scena si vede che lo smentisce, perché si rende conto che questa teoria sembra è molto immaginifica, molto inventata, poco concreta, poco reale. Beppe Neri, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Giuseppe Neri, presidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Allora, cerchiamo di capire qual è la situazione che vogliamo noi in questa mattina nucleare. Ci sono sempre state persone che hanno deciso di affidare se stessi in maniera del tutto gratuita e spassionata a maestri di vita. Ci sono sempre stati maestri di vita che hanno lucrato, fatto soldi, costruito fortune, ma anche nella nostra recente storia patria, psichiatri, ex preti, preti spretati, preti perfettamente integrati e inseriti nella loro gerarchia, gente di tutti i tipi, venditori, imbonitori e via dicendo. Questo è un momento molto particolare, converrai Beppe. Qual è il rapporto, proprio dal punto di vista della tua professione, che hai individuato in queste brevi battute del film? Il cuore del problema sta nel fatto che c'è una sottile linea che separa la condizione in cui una persona può trovare conforto, supporto, sostegno, riscontro in un momento di particolare fragilità emotiva o anche di condizioni esistenziali segnate da elementi come quelli che tu citavi poco fa, di una crisi anche economica, quella in cui noi viviamo, e l'uso che poi l'interlocutore, il maestro di vita, il guru, adesso con questa esterofilia dilagante va di moda il life coach come termine, l'uso che questo secondo personaggio sempre roba tipo Don Nascimento, è sempre un maestro di vita. Sì, infatti mi hai anticipato, perché io dicevo nella mia avevo in mente questa cosa, perché si passa dal saggio personaggio di riferimento che può darti un sostegno, un consiglio, un indirizzo, a una specie di imbonitore alla Vanna Marchi, come ce ne sono sulla rete, per esempio negli Stati Uniti, che hanno shakerato benissimo in un Tumblr un po' di neurobiologia, un pochino di neurochimica, un po' di sociologia, un po' di psicologia tanto al chilo, e hanno confezionato dei prodotti in cui, come si vede, ti offrono dagli integratori ai corsi di riciclaggio, per cui se tua moglie ti mette le corna, se non riesci a soddisfare il tuo datore di lavoro, se hai dei problemi di realizzazione personale, c'è una soluzione chimica, relazionale, organizzativa pronta sul web, costa tanto a tanti dollari a giornata. Tu stai alludendo al dottor Amen. Questo quello che c'è negli Stati Uniti si chiama Amen Clinics, ed è qualcosa di strepitoso, perché secondo me è una perfetta chimica fra una Vanna Marchi denoanti riciclata fra il Wyoming e l'Oklahoma, e la capacità che quest'uomo, sicuramente forse in qualche circostanza è entrato anche in possesso di una laurea in medicina, di mixare frammenti di informazioni che hanno un brandello di fondamento scientifico. Basta Wikipedia per questo. Esatto. E rielaborarle. Per esempio, io ho notato che lui vende a chi lo ascolta l'idea che, facendo un esame molto sofisticato che a noi serve per capire come alcune parti del cervello assorbono per esempio ossigeno o altre sostanze essenziali per il funzionamento del cervello, che si chiama SPECT, tomografia emissione di positroni a fotone singolo, lui capisce se la relazione marito-moglie potrà essere modificata, che è una millanteria terrificante, è una strumentalizzazione becera, ma penso che in questa pseudotecnologia tanto al chilo, che nelle campagne del profondo sud dell'America va tanto bene, si venda benissimo. Ma certo, come dire, ti salvo l'anima con una rettoscopia, alla fine finirà questo. Chiara, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Chiara. Buongiorno. Mi dica, ha frequentato un gruppo buddista? Lei. Esattamente, io ho 35 anni, ho frequentato un gruppo buddista, come molte persone, e la mia esperienza è tendenzialmente negativa, e sono d'accordo con quello... Cosa le è successo? In che situazione era? Cosa le hanno fatto? Cosa le hanno chiesto? Allora, sono arrivata in questo gruppo in un momento di grande sofferenza personale. Cosa era successo a lei? Un insieme di circostanze per cui ero molto sola. Cioè, sarà mollata con la persona amata, cose del genere? Sì, no, cose più pesanti, familiari o meno, me ne ero andata di casa, una serie di situazioni in cui non riuscivo a parlare dei miei problemi con nessuno, perché nessuno sembrava né capire né riuscire anche solo ad ascoltare. Perché, Chiara, è logico, quando galleggiamo nella sfiga è come se emanassimo cattivo odore, ci stanno tutti lontani, questo è fisiologico. Allora? Esattamente, e allora è successo che ho incontrato per caso una persona che frequentava uno di questi gruppi buddisti e mi ha detto: guarda, se vuoi provare a venire a parlarne con noi, vedrai che potresti trovare la soluzione ai tuoi problemi. E che soluzione le è stata proposta? Ma la soluzione che è stata proposta a livello concreto è stato di condividere questa sofferenza e entrare a far parte di questo gruppo, che in realtà crea delle relazioni morbose basate proprio solo sulla condivisione della sofferenza. Cioè, in pratica, ma mi faccio un esempio concreto, come si condivide la sofferenza? Sono dei gruppi nei quali ci si sfoga, si dice quello che ci capita, ma non si trova nessuna soluzione concreta, e poi ci si abbona ovviamente a riviste o meno, e si entra a far parte di questi gruppi che fanno parte di una comunità molto più grande. Una specie di autocoscienza, come gli alcolisti anonimi, ognuno dice sì, io. È una cosa del genere. Ma è la soluzione da dove viene, a parte lo sfogo? La soluzione viene dal fatto che loro dicono: tu prega in questo modo, la chiamano una pratica. Come si chiama la pratica? È quella del Nam-myoho Renge Kyo, in quel caso. Ah sì, sempre quella roba lì, sempre quello. Sì, sempre quello. In realtà non aiutano per niente, perché creano una condivisione basata solo su questa sofferenza. Ma loro cosa le viene? Cosa ci guadagnano in questo? Ma guardi, c'è una società dietro in Giappone, e addirittura ci sono persone che lasciano l'eredità. Sì, più o meno corrisponde a una sorta di l'ha detto buddisti. Se parla con un buddista, dice che non c'hanno niente a che fare con noi. Esattamente, in realtà poi diffondono scritti scritti nei quali si dice che quanto ha sganciato lei in questo periodo, diciamo, di illuminazione? Ma guardi, io nulla, perché mi sono tirata fuori molto in fretta, avevo studiato troppa filosofia al liceo. Per Quindi non ci ha rimesso nulla alla fine? Io personalmente no, però le persone che ci sono dentro hanno cercato di continuare a convertirmi per tempo, e non ti mollano mai. Non ti mollano mai e cercano di convincerti che sei tu quello che si è allontanato, quello che non funziona, che non, e in realtà sembra quasi che i rapporti che hanno instaurato stando là dentro, sì, hanno qualcosa di sbagliato. Però alla fine lì dentro trovano amici, amicizie, amori, affettività. Sì, le persone si ricostruiscono una vita dentro questi gruppi chiusi. In realtà si frequentano alla fine tutti fra di loro e fanno fatica ad avere rapporti esterni con persone normali. Non accettano il contraddittorio, non fanno altro che dire grazie per qualsiasi cosa venga detta, ma non si prendono le proprie responsabilità. Vabbè, e comunque è una specie di supporto fisioterapico, nel senso che alla fine farà persone che sentono sole, troveranno qualcun altro altrettanto sfigato con cui averci a che fare. Laura, buongiorno. Buongiorno. Lei pure ha avuto una situazione simile? Ma non esattamente simile, se non nel punto di partenza, perché poi in queste situazioni tutto nasce con il classico momento di debolezza nel quale si ha bisogno di rivolgersi a qualcuno. Nel mio caso, tramite una presunta amica, mi avvicinai ad un uomo che si faceva chiamare maestro e che, come dire, si presentava come il risolutore buono di tutti i problemi. Quindi era una persona che ti aiutava ad uscire dalle situazioni difficili, ti dava energia. E l'energia come la trasmetteva? Ma la trasmetteva con il suo pensiero, con la sua bontà infinita, ovviamente sono sarcastica, e in una serie di pratiche che evidentemente lui faceva non di fronte alle persone con cui aveva a che fare, né nel caso specifico, ma per conto proprio. Rosano, pratiche magiche, pratiche psicologiche? Sì, diciamo che parlava di magia, lui la poneva come magia bianca, poi non saprei dire esattamente che cosa faceva, proprio perché tutto questo... Quindi lei non aveva fatto vedere niente, si fidava sulla parola? No, io mi fidavo sulla parola, anche perché questa persona formalmente non mi chiedeva dei soldi, ma mi metteva in realtà nella condizione psicologica di dargliene tanti. E lei ne ha dati? Ne ho dati tantissimi. Più o meno quanto? Ma 30-40 mila euro probabilmente in tutto il periodo. In quanto periodo, tempo? 3 anni, 2 anni e mezzo. Ma era ricca lei? Assolutamente no. Però trovava i soldi da dare al maestro di vita? Assolutamente sì. E i vantaggi c'erano, aveva qualche vantaggio? Ma i vantaggi, diciamo che io in quel momento ero talmente legata a questa persona e alla figlia, perché erano in due ad operare, per cui credevo che fossero una sorta di estrazione della mia famiglia. Ero completamente isolata dalle mie amicizie e dalla mia famiglia stessa, per cui intorno a loro credevo che si potesse risolvere tutto. In realtà poi nel tempo ho capito che quello che queste persone fanno è puntare sul momento di debolezza, indebolire ancora di più, quindi far perdere alla persona qualsiasi punto di riferimento, che sia familiare, che sia sentimentale, che sia lavorativo, per cui tu hai bisogno di rivolgerti a loro per qualsiasi cosa. E il fine qual era? A parte i soldi, naturalmente. Solo i soldi. Quindi l'avrebbero prosciugata quando aveva ancora, finché aveva un centesimo vale la pena, poi l'avrebbero mollata loro comunque. Ma in realtà li ho mollati io, perché fortunatamente in parte grazie all'aiuto di mia madre, che insomma poi ha capito che c'era qualcosa di strano e quindi ha cercato di avvicinarsi scientificamente direi a queste persone per conoscerle meglio, in parte perché fortunatamente io da solo ho capito che c'era qualcosa che non andava. Una mattina mi sono svegliata e ho mollato completamente. Quindi sua madre, diciamo, si è iscritta alla setta per salvare lei, una cosa del genere? Ah sì, insomma, diciamo che si è spacciata per amica di questo gruppo. Non era una setta, erano due persone, un entourage chiaramente di amicizie e di conoscenze. Ecco, la media delle persone che frequentavano un gruppo del genere, per capire come stato sociale, sì, certamente persone normalmente di stato sociale alto, quindi persone con una capacità economica importante, persone con un alto livello culturale. Questa è una cosa che, come dire, fa anche un po' sorridere, no? Perché io per prima, così ripensandoci oggi, direi ma come ho fatto, perché sentir parlare di queste storie fa ridere, è evidente che c'è qualcosa di marcio, quindi persone da cui insomma non ci si aspetterebbe una debolezza. Quindi di non soltanto le massaie che comprano il lassativo del mago del nascimento, ma anche persone, quindi l'attenzione deve essere su tutti i livelli. 800240024. Michele Del Re, buongiorno. Buongiorno Gianluca. L'avvocato Michele Re è un avvocato, professore di diritto penale, da anni si occupa di setta. Ha scritto con Maria Immacolata Maciotti il libro Comunità spirituali del XXI secolo, Aracne Editore. Hai sentito, avvocato, queste due testimonianze? Per te è roba ormai da manuale. Certamente, la prima è la più particolare ed è molto nuova, è quella della via atroce alla felicità. Via atroce, cioè la mortificazione portata come strumento per giungere appunto alla serenità, se non alla felicità. È una via paradossale che però riprende vecchi temi della sofferenza come unico strumento per la serenità, per la felicità. Beh, fa parte, è una fa via parte anche distruttiva. Fa parte anche della nostra mistica cristiana, comunque, la certo, scelta della macerazione. Ma la stessa mortificazione oggi viene intesa in un modo diverso dalla stessa Chiesa. È una via veramente distruttiva che permette un assoggettamento totale. L'altra è quella, l'altra persona che ha subito questa esperienza si è riferita alla energia interpersonale. Certamente esiste nello stesso dialogo umano la possibilità in qualche modo di aiutare oppure distruggere l'altro. Appunto, sappiamo che l'esempio maggiore è Dignitad, quella vera e propria setta distruttiva. Mi fai un caso, avvocato Del Re, per far capire che hai seguito ultimamente? Perché quello che volevo capire questa mattina è che se il momento particolare della crisi diffusa, che la crisi non è soltanto un problema di tipo economico, diventa un problema sociale, un problema di gestione dei propri affetti, delle proprie relazioni, di mortificazione, perché l'abbassamento del potere d'acquisto e l'abbassamento anche della qualità delle relazioni, inutile illuderci. Certo, io direi questo, che oggi resta un poco del generico, ma è necessario, posso fare riferimento ad alcune cittadine vicine a Roma dove ho dei casi di questo tipo. I gruppi veramente pericolosi sono quelli piccoli, palestre e così via, per i quali è estremamente difficile il controllo, e posso dire che lo strumento oggi più utilizzato non sono questi più lenti nel verificarsi, ma è quello dell'ipnosi. Un esempio di cui non posso naturalmente fare nomi, in un paesino a 20 chilometri da Roma, dove una ragazza è andata per una studentessa, è andata un poco per curiosità. In pochi minuti, per farla breve, il santone bello, alto, con l'abito bianco e così via, ha cominciato a fissare le parti del corpo di questa ragazza, dicendo, mandando se sentiva caldo da qualche parte, il seno, se sentiva caldo al seno, finalmente sceso alle parti più caso, personali, certo, della donna, e in qualche modo ha scatenato una crisi incredibile, diciamo pure di risveglio dell'animalità, e la ragazza è restata presa del gioco al punto che ha telefonato al fidanzato. Lei non intendeva tornare né quella sera né in prosieguo, tanto era legata. Naturalmente c'era stato tutto un gioco. Fermati un attimo, Beppe Neri, qua mi serve il neuropsichiatra, qua è proprio roba da spada di fuoco, proprio da Verdone. Ma è un caso da manuale di manipolazione estremamente abile da parte di qualcuno che nel tempo ha elaborato delle capacità di cogliere alcuni elementi di fragilità e di debolezza, e quindi di vulnerabilità, e che poi, con tutto questo armamentario di suggestione, l'abito bianco, il contesto, eccetera, riesce a in qualche modo influenzare la giovane donna che si trova di fronte. Il problema è che quasi sempre, andando ad analizzare meglio queste cose, c'è un non detto che deriva dal fatto che in fondo queste persone, in alcuni casi, se ricorrono a quel tipo di ipotesi di soluzione, se cioè anziché andare da una persona di fiducia, dall'amico, dal parente, dal medico, da chi vuole, vanno dal santone, diciamo che dentro di loro portano una predisposizione ad essere aperti a questa possibilità di essere oggetto di manipolazione. Questo non vuole essere una discriminazione, ma vuol dire che esistono delle condizioni preliminari che facilitano l'introduzione di questi strumenti. Diciamo, chi spada di fuoco cerca, spada di fuoco trova. Questa è la sintesi. Melog, la realtà condivisa. Cioè, improvvisamente, no, in fondo ad un sentiero, no, vidi come la figura di un uomo, no, vestito di bianco, no, cioè, dal cui volto veramente splendeva una luce un sacco strana, no? Cioè, ma la cosa ancora più strana era, cioè, che mentre io mi avvicinavo a lui, no, cioè, mi sentivo prima un sacco caldo, no, poi un sacco freddo. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Perché non rimani qui con me questa notte? Potremmo ripararci insieme sotto questa frasca. Aridai. Anche perché di notte, no? Un sacco di spiriti malvagi potrebbero turbarti durante questo tuo cammino, no? E niente, allora io accettai, no? E ricordo proprio che trascorsi questa notte con lui, no? Sotto un cespuglio, no? E veramente di notte proprio si sentivano proprio tutti questi spiriti malvagi, no? Che aleggiavano intorno, no? Però io, cioè, ero abbastanza sicuro, cioè, anzi, no, ero sicurissimo. Proprio perché lui mi difendeva proprio con una lunghissima spada di fuoco. Cioè, quando la mattina ci svegliammo, no? Cioè, lui, il maestro, non mi disse, adesso prosegui, vai sempre dritto, no? In fondo a questo sentiero, perché troverai un grandissimo casale bianco, no? Con una grandissima piscina, dove un sacco di ragazzi di tutto il mondo, no? Stanno formando una grandissima... 800 24 00 24. La buttiamo anche un po' a ridere, anche se non c'è niente da ridere. In realtà, la spada di fuoco del famoso film di Verdone, adesso mi parlerà Sansonna, mi viene subito contrapposta da qualche ascoltatore, manda il link di una notizia di qualche tempo fa in cui ci fu un prete brasiliano di una parrocchia romana che si approfittava carnalmente delle beghine e parrocchiane, dicendo che ha avuto il fallo benedetto e unto dal seme divino dello Spirito Santo. Insomma, è abbastanza diffusa. Intanto Verdone, Giuseppe Sansonna. Qui Lippi Verdone si scontra con il sincretismo estetico, il carisma di una sorta di Rasputin incrociato col dottor Mabuse di Lanca e con Lando Buzzanca tutto insieme. E ci vuole tutta la ruvidità capitolina da Gioacchino Belli di Mario Breca per sgretolare questa sorta di pozione magica, di malia che circonfonde il figlio e che lo porta a vivere in questa comune. Ma questo è un film dell'80, un sacco bello, c'erano tutti i residui culturali degli anni 70, la smania di comune, era molto di moda, era molto in voga questo tipo di atteggiamento e questo tipo di derive. oggi forse sono un po' datate, però rinascono in nuove forme, nuovi adattamenti, nuovi scheggi di immaginario. Sì, come, sta, come diceva prima appunto Giuseppe Neri, c'è un passo avanti, ci si adegua più a quello che è lo spirito dei nostri decenni. Fra parentesi, mi stanno chiamando molti buddisti indignati per quello che è stato detto. Sono stato il primo a prendere le distanze dicendo chi prende adepti e li chiude in una stanza e gli dice che pronunciando la sacra formula si salvano da tutti i mali e riescono a ottenere la prova certa che la loro volontà dà risultati concreti, nulla hanno a che fare con il buddismo, non c'entra nulla, non vi offendete, nessuno si offenda. Giuseppe Neri, neuropsichiatra, presidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Torniamo su questo altro aspetto. Noi ci abbiamo scherzato, ma mi sembra che siano due i punti fondanti. L'uno è quello di portate via più soldi possibile, l'altro sia quello di giocare su una sorta di promiscuità carnale. Insomma, il santone che stiamo allucinando, il guru, il maestro di vita, becca soldi e becca anche comunque piacevolezze estorte alle proprie vittime. Beh, è un grande classico, nel senso che quando noi usiamo il termine il leader ha un atteggiamento manipolativo nei confronti degli adepti, questo anche ha un significato squisitamente concreto, nel senso che lo stabilire, lo schema classico nelle società bianche anglosassoni è che il leader sia un maschio e che quindi gli adepti siano uomini e donne, e prevalentemente, con le dovute eccezioni, oggetto di queste attenzioni sono delle signore o delle signorine. Allora, il consolidare con un vincolo sessuale che non è per nulla simmetrico, paritetico, condiviso, ma nei fatti è imposto, questo rapporto di dipendenza è uno strumento che rende ancora più efficace e ancora più pervasiva la capacità del leader di esercitare un controllo che, partendo dal controllo fisico, si estende a quella che poi una volta nella nostra almeno tradizione italiana veniva chiamata la circonvenzione di incapace o il plagio, perché poi nella realtà, se si seguono le storie, a me è capitato come all'avvocato per motivi professionali di conoscere alcune di queste storie, c'è una condizione in cui le persone sono totalmente soggiogate, ci sono patrimoni e famiglie che si sfasciano e ci sono dei danni che si possono protrarre per la persona e per la famiglia per tantissimo tempo. Sentiamo Gian Nicola. Gian Nicola, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. In tre parole, questo amico, che era tutt'altro che uno sprovveduto, drammaturgo, aveva appena vinto un premio di successo, inizia intorno ai 37 anni a avvicinarsi, a dirci, a raccontare a noi, cerca di amici storici, che andava nei campi a fare i tamburi, che mangiava delle gelatine di frutta. Come a fare i tamburi? Costruire tamburi? Costruire tamburi e poi li suonava. Che ma il tamburo che? Con la pelle degli asini? Con cose costruite? Con la pelle, no, sinceramente non siamo usciti nel dettaglio, perché posso dire la verità, noi non ci siamo mai preoccupati, lo sfottevamo e diceva vabbè, ok, ci fai provi anche questa. Peccato che si è venuta la leucemia, l'ha tenuta nascosta a tutti, si è curato seguendo le indicazioni di questo psicologo italiano, è scritto tuttora all'albo, di cui non faccio un nome, e si è curato secondo lui con lo spirito del guerriero, salvo poi negli ultimi 20 giorni, quando i globuli ormai erano alle stelle, rendersi conto che stava morendo ed è morto. Cioè, uno psicologo suggeriva cure per la leucemia costruendo tamburi con lo spirito del guerriero. Gelatina di frutta. Le risulta che ci siano altri adepti che seguono la stessa terapia scellerata? Allora, questo stiamo parlando dei fatti del 2003, e per qualche anno noi l'abbiamo monitorato, visto che eravamo comunque un paio degli amici, erano psicologi anche loro, e si pensava di cercare di fare un procedimento, farlo espellere l'albo, non so che. In realtà abbiamo trovato, l'unico caso di morte e di danni è stato questo del nostro amico, e la chiamo setta, il gruppo di studio o di lavoro continua a esistere. Niente, vanno avanti, basta. Evidentemente forse è fatto più furbo, probabilmente adesso si preoccuperà di dire no, non hai lo spirito del guerriero che ti salva, ma vai in ospedale. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletto, è un piacere sentirla dopo la seguita da tanti anni. Ora io vengo dopo una testimonianza agghiacciante e mi auguro che quello psicologo paghi per queste evidenti colpe. Ho chiamato un po' confuso solo perché avevo appena ascoltato le due testimonianze di due ragazze che, venendo da un momento di difficoltà personale, si sono trovate come dentro delle sette, no? E hanno citato il Nammyo Renge Kyo. Mi sente? Sì, sì. Ecco, perfetto. Ora, io non ho fatto parte di questo gruppo, quindi ci tengo a specificarlo che non sto difendendo nessuno. però casualmente mi capita di conoscere persone che ne fanno parte e io ho anche testimonianze sotto i miei occhi di persone che invece ci mettono tanta buona fede e tanto amore e tanto cuore nel dare consigli o nel dare tutto a se stessi, quindi volevo solo dire che magari non tutte sono sette chiuse, poi ripeto, io non ne faccio parte, ho un altro percorso e comunque di via. Ha puntualizzato che anche in questo gruppo di cui parlava la signora, secondo lei... Sì. Ho anche seguito delle lezioni, non mi è interessato farne parte, però voglio dire, ci sono anche persone per bene che mandano avanti tentativi di, come dire, di stare bene, perché poi... Ma è chiaro che chi sta dentro ci creda, è al vertice di solito, non parlo di questa organizzazione in particolare, bisogna capire il qui prodest, cosa gliene viene al grande capo assoluto di queste organizzazioni, che tante persone siano così da fare per gli altri. Ma sa, se poi uno sta bene e non si lamenta, non ha problemi, ognuno fa le sue scelte. Michele Del Re, avvocato Michele Del Re. Abbiamo molte telefonate, io mi trovo veramente in imbarazzo perché tutti mi dicono fate qualcosa, possibile che nessuno interviene. Intanto è stato preso un tema estremamente importante, quello del plagio. Voi sapete che venne tolto di mezzo. Depenalizzato, sì. Ecco, adesso io sono 30 anni, ma Vassalli era dalla mia parte e così via. Perché non si rimetta in piedi il reato di plagio, ma giustamente si è parlato circonvenzione incapace, io parlo di aggressione all'integrità psichica per la quale assolutamente è necessaria una norma io in questo richiamo l'aiuto di tanta gente, anche se ci sono già delle proposte nell'ambito legislativo. L'aggressione alla integrità psichica è un fatto obiettivo conosciuto da tutti, gli psicologi e gli psichiatri ancora più lo riconoscono, invece per una sorta di resistenza incredibile si difende la posizione di dire no, non deve essere reinserito un reato, ripeto, di aggressione all'integrità psichica in nome della libertà. Ma è un paradosso, la libertà si garantisce proprio attraverso una norma che dica tu non puoi usare alcuni mezzi, attenzione, questo è l'aspetto tecnico, non puoi usare alcuni mezzi, puoi persuadere, puoi cercare di convincere in tutti i modi, ma ci sono dei mezzi, come l'ipnosi che dicevo prima, la via atroce che ha raccontato una protagonista, e altre di questo tipo, che debbono essere colpite alla radice, cioè non quando si è verificata la soggezione, ma dire alla gente alto là, tu questo mezzo non lo puoi usare, sei già criminale perché ad esempio adoperi l'ipnosi. Fermati un attimo, devo dare l'informazione del traffico, se no ti interrompo a metà. Ci fermiamo solo un istante, poi riprendiamo con Beppe Neri e Giuseppe Sanzon. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Signori, benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club. Terza regola del Fight Club: se qualcuno grida basta, si accascia, è spompato, fine del combattimento. Quarta regola: si combatte solo due per volta. Quinta regola: un combattimento alla volta, ragazzi. Sesta regola: niente camicia, niente scarpe. Settima regola: i combattimenti durano per tutto il tempo necessario. Certo. Ottava ed ultima regola: 800 24 00 24. Fight Club è un film a scatole cinesi, però in questo caso anche qui c'è una regola ferrea che dovrebbe legare alcune persone. Poi se tutto questo nella mente di un essere umano e non esiste, è un altro problema. Sì, bisogna fare uno spoiler, ma il film è del 99 ed è entrato talmente nell'immaginario collettivo da allora a oggi che si può dire che, e qui c'è Edward Norton, che si autogenera un guru, che è il personaggio di Brad Pitt, che cerca attraverso l'aggressività di farlo uscire dalla sua alienazione, e la via di fuga in un momento di crisi personale, di alienazione quasi da romanzo di Houellebecq, c'è la voglia di uscire attraverso questi incontri violentissimi, questi scontri in questi scantinati, atti terroristici, e una serie di situazioni che però sono storiche, sono una rivolta storica a quello che sta accadendo, al forte senso di alienazione che si sente addosso il protagonista, che è condivisibile in realtà nel mondo occidentale, molto condivisibile. Lui praticamente ha allucinato una situazione che in realtà è registrabile nei casi che stiamo parlando. Si è inventato lui il guru, si è inventato la metodologia, si è inventato la filosofia di vita, si è inventato la secretazione totale di quello che accade. Beppe Neri, rispetto a quello che ha detto prima l'avvocato del re, rispetto al protagonista di Fight Club, che alla fine se il guru non lo trovi fuori te lo inventi dentro di te. Ma io penso che sia una fotografia molto precisa della situazione di questo nostro paese, che come a me piace dire coltiva ambizioni scandinave ma offre soluzioni operative di tipo ruandese. Cioè il problema che giustamente l'avvocato individuava nell'aggressione all'integrità psichica, ma facciamo un parallelo. Se io ho una persona che improvvisamente, un professionista di successo, un avvocato, un medico, un dirigente d'azienda, ha un episodio delirante acuto, cioè quello che direbbe la casalinga di Voghera, da fuori di matto, io oggi in questo paese, se non ho un provvedimento specifico emesso da un'autorità che si chiama trattamento sanitario obbligatorio, se lo curo contro la sua volontà faccio un sequestro di persona, se lo lascio al suo destino viaggio fra l'abbandono di incapace e l'omissione di soccorso. Ecco, la situazione in cui si trovano queste persone che con abilità e dolosamente utilizzano le debolezze altrui non è molto lontana in un altro contesto da questo, perché noi abbiamo una lacuna normativa molto pesante, però ci comportiamo come paese come se potessimo comportarci come se fossimo a Helsinki o a Stoccolma. È molto diversa la realtà. Un'altra cosa sull'oggettiva possibilità di verificare le metodologie invasive: fra le prime ragazze che hanno chiamato alla fine non c'era nessun tentativo di violenza. Io ti parlo, ti dico guarda, posso aiutarti, ma io lo dico ai miei amici quando posso, che posso aiutarli, e dedico del tempo se voglio a una persona a cui tengo, e questa non è una metodologia invasiva. Quando scatta l'attività reale, concreta, mirata al sequestro della coscienza della persona? Bisognerebbe essere in grado di poter individuare e misurare dei margini di autonomia decisionale da parte dell'interessato, cosa che nei fatti è estremamente difficile, perché questo si verifica e si realizza in un contesto chiuso in cui esistono quasi sempre solo due persone, e penso che quelle ragazze racconteranno che se hanno avuto dei rapporti sessuali, non ho presunzioni di tipo giuridico o legale, però con estrema difficoltà arriveremo a stabilire che sono state delle violenze, perché alla fine loro racconteranno che è stato qualcosa che hanno compiuto senza sentirlo assolutamente come una violenza ai loro danni. Quindi è la sottigliezza estremamente dettagliata con cui questo avviene che rende difficile colpire. Però lo strumento, sono d'accordo, per quanto riguarda l'aggressione all'integrità psichica, lo strumento di intervento va cercato, perché noi siamo completamente lacunosi in questo. Walter, buongiorno. Buongiorno, complimenti. Io vi ascolto tutte le mattine, sempre. Oggi comunque la trasmissione mi sembra che sia basata solamente sulle persone incapaci. Io le parlo perché ho vissuto una storia, più di una, e abito a Torino. È basata a Torino. Sulle vittime, capaci o incapaci, non lo so, non sono io che devo giudicare. No, vabbè. Su chi capita di incappare in queste situazioni ne rimane vittima. Io ho praticato la setta, chiamatela come volete, dove comunque eravamo tutti consapevoli. Qui a Torino si sa, non voglio approfondire, comunque c'era... Sì, diciamo, è un terreno fertile per queste cose. No, vabbè, ci sono le sette, proprio c'era quella... praticavo io, di cui non posso dire il nome, niente, come dicevo giustamente gli adepti, che praticavamo dei riti egiziani, però questi riti egiziani erano per noi stessi. Cosa vuol dire? Prendevamo delle forze, noi eravamo tutti professionisti, facevamo queste cose occulte. Ma come rito egiziano, per sintetizzarlo, in cosa consiste? Ma noi usavamo delle forze, per esempio punti cardinali, delle preghiere, poi una dea matta, ecco, diciamo così, qualcuno forse mi sente, sa cos'è la dea matta. E la dea dove stava, come ci si rapportava? la dea era quella che cui pregavamo noi, ecco, proprio per darci questo aiuto. Vabbè, però è vero, era una preghiera, cioè, alla fine non cambia molto rispetto, era una alla preghiera. Noi ci riunivamo, scrivevamo libri, facevamo tante cose, tre volte alla settimana, era molto impegnativo, però posso dirgli che a tutti noi è servito molto. Non andavamo a retta più che altro al nostro capo, eravamo tutti lì per avere degli interessi personali. Ma che ve ne veniva? Qual era il vantaggio? Ce ne veniva una forza mentale per riuscire a soggettare le altre persone che avevamo bisogno magari per degli affari, ecco, ma non era niente. Ah beh, capisce, voglio dire, ci sono delle forze. Mi veniva insegnato come fregare gli altri praticamente, con la dea madre. Diciamo, come si può dire, magari solo era una forza del pensiero e attrazione magnetica con gli occhi, non era niente. Se lei lo mette come fregare, probabilmente era così. No, figurati, ci sono, si chiamano tecniche di persuasione, tecniche di marketing. Forze ci sono fortissime. Chi lo fa lo sa perché lo fa. Non è vero che tutti sono soggiogati. Ma lei è capace? È capace? Scusi Walter, lei sarebbe capace a soggiogare una persona? Sì. Certo. Ma come si fa? Mi soggioghi? Basta stare vicino, no? Basta stare vicino. Ah, deve guardare. Come dire, esprimere dei desideri. È la forza che ha questa persona legata a tutto, comunque il clan di cui siamo partecipi, eravamo partecipi, ci dava questa forza e andava sempre bene. Adesso ha smesso Walter, ha smesso questa cosa? Diciamo che sono dal 2002 che ho smesso, e ho praticato per 8 anni. Vabbè, quanto ci ha fatto? Ci ha guadagnato molto con questo sistema? Sì, beh, diciamo, forse la mia anima ci ha guadagnato molto, altre persone cattive sono morte. E quelle addirittura, facciate anche schiattare. Certo. Vabbè. Posso dire, tanto nessuno può incriminarmi. Ma come l'ammazzavate? No, per capire, come le facciate morire? Con dei rituali a morte? No, magari c'erano persone che comunque non valeva la pena di tenere così. Ma come le ammazzavate? Con la forza mentale. Ah, lei con la forza mentale riesce a ucciderlo. Vicino, lo guardavamo negli occhi, magari dopo un po' di tempo questa persona moriva. Non più, e quanti ne ha uccisi lei con questo sistema? Non posso dirglielo. Ma più o meno, da 1 a 10, no. Da 1 a 10. No, neanche uno, diciamo neanche uno. Vabbè, allora lei. Era collettivo la cosa, non era. Vabbè. Claudio, buongiorno. Troppo divertente questa cosa. È divertente. Io. Se il Signore ci insegna come fa, magari. Io non giudico, io semplicemente devo stimolare le persone a parlare. Lei invece. Panorama politico, magari. Sì. Di qualcuno. No, assolutamente. Lei, Claudio, no, invece lei è una persona seria. No, io sono ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità. Mi occupo di stress, quindi di tecniche antistress. E io penso che un'esperienza di oltre 30 anni, posso dire che. Cioè, c'è un enorme bisogno da parte delle persone che soffrono ed è facilissimo per questo, quindi non è tanto nella forza dell'ipnosi, secondo Erickson, insomma, è il soggetto, io sono d'accordo con lui, è il soggetto che gestisce il rapporto, non è la forza di colui che guarda, queste sono tutte sciocchezze, bisognerebbe fare un'opera di chiarimento proprio. Sì, ma lei cosa vuol dire, Claudio? Che in realtà al Ministero della Sanità c'è chi seriamente si occupa di questo? No, a parte che non è il Ministero dell'Istituto Superiore. Ah, l'Istituto Superiore della Sanità, scusi. È una cosa molto sì, diversa. Vabbè, l'Istituto Superiore. Io poi sono da pochissimo. In quiescenza, ho dato le dimissioni da poco. Comunque mi continuo a occupare. Voglio dire, il discorso è un discorso estremamente complesso, che affrontarlo solo da un punto di vista, come dire, legale, di chi vedere il problema di chi viene manipolato è limitato. Oggi sì, basta vedere, per esempio, quanti motivatori girano nel mondo e fanno veramente dei soldi enormi. Insomma, io ho partecipato a una di queste riunioni per curiosità, sono stato invitato, eccetera. Di uno dei più noti, Deepak Chopra, che anni fa è venuto qui a Roma, insomma, è la platea era quasi di 1000 persone. Da mi fermo un attimo, che la sigla ci porta via. Ci fa capire che questa missione dovrà avere un seguito, perché al di là dei guru, dei maestri di vita, ci sono i manipolatori, di cui vorremmo sapere di più. Alla prossima. Melog, la realtà condivisa.